Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith in you, baby. I got faith. Nuovo assalto alla manovra, 4.000 emendamenti dal bonus bebè alla lotta al cancro con le imposte sul fumo, il Corriere della Sera. La rivoluzione del fisco, Ruffini, cancellerò il 7.30, troppe le tasse inutili, la Repubblica. Incontro Trump-Putin, solo una stretta di mano, la fotonotizia sul Corriere della Sera sempre. E invece la Stampa, poveri azzurri, mondiale più lontano con tanto di foto e la disperazione di Belotti dopo il gol mancato alla Svezia, e Banca Etruria dietro la rottura Visco-Renzi, sempre la Stampa. E poi ancora su Repubblica, la banda dei Sassi non si arrende mai, 63 casi in un anno, Lombardia, donna morta in auto. Il Fatto Quotidiano invece su Ostia, PD isolato, Ampi, Emiliano e Bersani con raggi contro i clan. Ma prima dice anche l'antenna abusiva di DJ per oscurare i concorrenti e Radio Rai meno 6% flop di Carlo Conti. Siccome siamo in radio mi sembrava corretto parlare dei titoli in prima pagina sulla radio e sui cali d'ascolti. Buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buon sabato da Carlo Gabardini. Allora abbiamo anche la Gazzetta dello Sport con San Siro, pensaci tu, la Svezia vince 1-0, ahimè, e ci mette nei guai, Italia brutta e confusa, ora si gioca tutto in 90 minuti lunedì sera a Milano per salvare il mondiale. E c'è Ventura che nell'intervista al dopo partita, il pari era più giusto, l'arbitro ci ha penalizzati, sembra un brutto sogno quando si parla dell'arbitro quando... che ci ha penalizzato, esatto, non va bene, esatto. Ventura, e non me bene. L'aspettavo poi da Ventura, devo dire, fra tutto, nel senso che la responsabilità, però va detto che tutti gli altri giornali parlano ovviamente della sconfitta dell'Italia contro la Svezia per 1-0, ma non con un grande risalto, come sempre. Insomma, se si arriva verso la finale, se abbiamo le prime. Se no, uno dice: mi sembra che ieri si è perso con la Svezia, ma non ne sono sicuro. Pare, sembra, si mormora. Abbiamo anche una buona gara di super titoli, Allora, io c'ho questo, il manifesto, come sempre, che fa i conti senza Ostia. E questo non è male. È il super titolo, assolutamente. Scontato, se vogliamo. Come scontato? No, questo non facile, non facile. Come dire, più insomma, scontato che... su Libero, grasso superfluo, per un articolo sul Presidente del Senato, che secondo Libero sarebbe svampito. Allora, sempre tra i super titoli c'ho mondiali. Che poi siamo sui titoli battute. Mondiali, esatto. Sprofondo azzurro, Repubblica in prima pagina, da profondo rosso a sprofondo azzurro, sempre a proposito della debacle, certo, della debacle degli azzurri. E va bene, questi sono un po' i titoli, una infarinata di quello che c'è sui giornali di oggi. Tra poco andremo, perché questa non è una rassegna stampa, ma noi cerchiamo buone notizie, se ce la facciamo. Siamo qui dalle 3 del mattino, Carlo. Oggi sei un quarto e posso durissima. Dirlo, posso dirlo, non funzionano le macchinette, aiutateci, venite a fare qualche cosa notizia. Perché siamo assolutamente privi di carboidrati. Questa non è una buona notizia. Allora però andiamo a sentire che cosa si aspettano invece i lettori dai giornali in edicola oggi. Lo ha fatto per noi, lo ha chiesto per noi Deborah Dirani, sentiamo. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo, qui tutto pronto per la nostra rassegna stampa On The Road. Qual è stata la notizia della settimana che l'ha colpita di più? Ma la notizia che mi ha colpito di più negativamente è stata quella del prete che ha praticamente insultato una 17enne che è stata stuprata. Che notizie dovrebbe contenere dal suo punto di vista il giornale perfetto? Le notizie di cronaca, ovviamente riportate quanto più possibile in maniera chiara, senza voli pindarici da parte di chi li scrive. Qual è la notizia della settimana che l'ha colpita di più? Beh, direi lo scambio di accuse che si sono fatti Consob e Banca Italia, anche perché non si capisce chi ha ragione, chi ha torto, e noi siamo sempre all'oscuro di tutto. Boh, praticamente ne ho letto una in particolare, è quella sull'arrivo del 19 del mese di questo pianeta, il pianeta Nibiru. Ah, sicuramente l'arresto del neodeputato regionale De Luca in Sicilia. C'è una figura proprio incredibile di non riuscire a fare nemmeno un giorno di candidato dopo essere stato eletto. Quali notizie dovrebbe contenere un giornale perché lei lo leggesse volentieri? Sicuramente parlare più di arte, sicuramente. L'arte, vogliono che si parli di arte. Intanto però a quell'ascoltatore che chiede notizie sulla questione Consob, Banca Italia, sì, Banca Etruria, eccetera eccetera, e il giornale suo è La Stampa, perché titola, come hai detto tu giustamente, Banca Etruria dietro la rottura Visco Renzi. Allora leggiamo anche il sottotitolo: l'ex premier Renzi non fu preavvertito del commissariamento di Banca Etruria fatto da Banca Italia, e da allora è stata guerra. Questo è il retroscena scritto dal direttore, dall'ex direttore Marcello Sorgi della Stampa. Quindi per quel lettore lì il giornale di oggi è La Stampa. Ma tutti se ne occupano al loro interno. E invece riguardo la questione del parroco che ha avuto parole durissime nei confronti della ragazzina violentata, in realtà se ne è occupato ieri Gramellini in prima pagina, e oggi siccome ci sono state proteste dal suo caffè di ieri, risponde alle proteste, e oggi se ne occupa anche Michele Serra con la sua amaca, dicendo: sbagliare tono vuol dire sbagliare tutto, dire a qualcuno hai torto con affetto oppure con disprezzo muta la frase nel profondo. Dunque non attenuanti quel prete di Bologna che alla ragazza abusata in una notte di alcol e di degrado ha avuto parole di condanna piuttosto che di soccorso. A proposito dello scandalo molestie, nessuno è escluso. Senti qua, su Repubblica, pagina 17, Svezia, molestie a 456 attrici. Bufera sul teatro di Bergman. Il teatro di Bergman. Pare, esatto, che ci siano una serie di non di denunce, ma insomma di casi che sono stati in qualche modo rendicontati. Due casi di stupro, ecco, diciamo, distinguiamo, e poi altri casi comunque di molestie in Svezia. Chi l'avrebbe detto in Svezia? Potevamo fargli tre gol per punirli per questa questione. Invece non ce l'abbiamo fatta. Potevamo l'abbiamo stupirvi con effetti speciali. Invece no, gli effetti speciali li hanno fatti loro. Beh, comunque al ritorno sarà una bella partita a San Siro. Io ci vado, tra l'altro, Ah, è vero, e posso anche testimoniare che avevi già deciso di andarci. Sì, quindi sì, non è che sei un tifoso dell'ultima ora, era proprio una decisione da tempo. Allora, c'è una buona notizia in una prima pagina dei giornali, abbiamo già citato. Mi stai mettendo alla prova? Sì, però attenzione, perché è una buona notizia col trucco, perché la rivoluzione del fisco, titola Repubblica, con l'intervista al nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini, che dice: cancellerò il 7,30, troppe le tasse inutili. Sì, signori. Vabbè, tutti bello, tanto nessuno poi la legge, tu dici, l'intervista, invece noi l'abbiamo letta. E cosa succede? Che questo annuncio, molto interessante, perché la rivoluzione del fisco di cui si parla da anni, il fatto che non si dovrà più fare il 7,30, ma sarà l'Agenzia delle Entrate a farlo per noi, poi ce lo manderà a casa, e noi dovremo solo controllare se è tutto in ordine, quindi meno adempimenti, però aspettiamo ancora bei 5 anni. Poi 5. Perdonami, proprio oggi come giornata dove quasi tutti i giornali titolano la questione della tassa dei rifiuti gonfiata del doppio in diverse città italiane, compresa Milano, dico Milano perché Alessio ed io qua paghiamo le tasse, e tra l'altro sto cercando di capire come si verifica se abbiamo pagato troppo o troppo poco. È abbastanza complicato, però sul sito di Repubblica ho visto delle risposte. Bisogna andare a vedere se ci fanno pagare, diciamo, il doppio questioni come il garage o le il balcone, le pertinenze. Bravissimo. Mi mancava la parola le pertinenze ed è arrivato in soccorso Alessio. Ed grazie. È per chiudere l'argomento Agenzia delle Entrate, il direttore Ruffini, che è direttore dell'Agenzia delle Entrate, nato a Palermo nel 1969, ci ricorda Repubblica, direttore da luglio di quest'anno. A proposito del che non si sa mai se è una buona notizia oppure no, la rottamazione delle cartelle o anche il tema dei condoni. Lui dice: guardate, la rottamazione di cui si parla adesso non è un condono. Io sono contrario ai condoni, mai più condoni, abbiamo sentito dire milioni di volte, però dice sostanzialmente che il 53% dei contribuenti che ha debiti col fisco li ha debiti non superiori a 1.000 euro. Credo che dare ai cittadini la possibilità di mettersi in regola senza un salasso di sanzioni e interessi non sia sbagliato. E poi insomma, per giudicare se è o no una buona notizia, questo però è l'intervista è interessante. Giustamente leggo un'altra domanda dalla quale non leggerò la risposta. Dice: 10 anni fa nella classifica della Banca Mondiale sulla facilità di fare impresa, l'Italia occupava per il fisco il posto numero 117. E ora? Oggi è al 126. Quindi sono belle domande fatte al direttore, giustamente, che tra l'altro appunto dice che ci vorranno altri 5 anni e noi ci chiediamo fra 5 anni da chi saremo governati. Traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. E a proposito di banche, di argomenti come la manovra, eccetera, il Sole 24 Ore titola: le banche cedono 60 miliardi di NPL. Nelle trimestrali l'accelerazione degli istituti italiani, piani di vendita e recuperi entro il 2019. Sulla manovra che notizie abbiamo? 4.000 emendamenti, abbiamo letto sul Corriere, dal bonus bebè alla lotta al cancro con le imposte sul fumo. E proprio che sembra un po', sì, che sembra un po' sempre l'unica ricetta. Arriva sempre, cioè, la tassa sul fumo. Quando non minuto. Ci saranno più fumatori, io mi chiedo chi pagherà le tasse. Esatto. Abbiamo un'altra notizia, che in realtà è una notizia che manca dalla manovra, perché ne parleremo dopo il GR delle 8. Non sono previsti al momento, se non abbiamo letto bene, tra i 4.000 emendamenti presentati, gli incentivi per la bonifica da amianto. Avete capito bene, ci sono incentivi e detrazioni per ristrutturare il salotto di casa, come giusto che sia, da anni, ma al momento vengono rinnovati di anno a anno, non ci sono gli incentivi per bonificare dall'amianto. È possibile che ci sia questa cosa in Italia? No, non è possibile. No, 6.000 non è possibile. Vittime... È forse più importante il salotto del paese, ovvero. Esatto, 6.000 vittime terra. Nel 2016 ancora le ha calcolate l'Osservatorio Nazionale sull'Amianto, che chiede detrazioni fiscali chiare, strutturali, per chi, condomini, case, ospedale. Noi vi chiediamo proprio questo, cari ascoltatori: se avete avuto a che fare con questo genere di incentivi fiscali, avete dovuto ristrutturare nel vostro condominio, oppure se conoscete una scuola o un ospedale dove c'è l'amianto e non si interviene, chiamate oggi all'800 24 00 24. Controllori dei fatti, così vi vogliamo. E poi vi vogliamo, e poi anche c'è il gioco. Un po' più allegri, perché è un po' meno controllori. Partiamo da un'altra notizia, che è quella del TAR, che ha dato ragione agli insegnanti di geografia. Devono essere loro quelli di ruolo a insegnare la geografia, non chiunque che passa di lì. Questa è la notizia della settimana. E allora, siccome noi vogliamo capire se c'è bisogno di questi insegnanti di geografia, perché in effetti sappiamo che il tasso di ignoranza è sempre abbastanza elevato, allora vi vogliamo mettere alla prova. Io mi autodenuncio, sono molto ignorante dal punto di vista geografico. Non è colpa delle scuole italiane, avendo io fatto la scuola tedesca, però effettivamente in geografia sono veramente molto debole e non me ne vanto, mi sento molto in colpa. I confini, che ne so, dell'Umbria, no? Scusi, allora oggi domande a bruciapelo. Non c'è il mare, vabbè, sull'Umbria lo so, sono preparato. 24 00 24, vi aspettiamo. E allora abbiamo delle buone notizie. Ma vi aspettiamo, nel senso notizie. Che facciamo delle domande di geografia? Guarda, geografia in diretta, così tacca bruciapelo, chi, cioè, indovina. Uno chiama e dice: sì, voglio essere sottoposto alla domanda di geografia, e se indovina vince il biglietto. È così? È così, esattamente così. È una nuova regola, è straordinario, è un gioco bellissimo, bello. Allora, io ho una buona notizia interlocutoria sulla prima pagina di Avvenire, titolo principale. Io questa cosa mi lascia mossa da Serie A, sospeso lo sponsor. Sentite che storia che riporta Avvenire. La Lega Calcio del commissario Tavecchio e la società Infront, quella che media i diritti televisivi del calcio, prendono atto che la società di scommesse russa, che credo si chiami U1 for Bet, non può operare in Italia. Stop all'operazione. Cioè c'era un contratto di sponsorizzazione di questa società di scommesse che però non aveva la licenza per operare in Italia, quindi non si poteva fare questo, non se ne erano accorti, gli era sfuggita proprio così sotto il naso. Tavecchio pare che sia molto contrariato, tutto vero quello che stiamo leggendo, e teniamo presente che 12 società su 20 in questo momento in Serie A hanno contratti di sponsorizzazioni legati all'azzardo, e non si capisce se è il caso, visto che va bene fare le scommesse, ma insomma, legare proprio il mondo del calcio, dei calciatori, con tutto quello che c'è stato in termini di scommessopoli, calciopoli in passato, sembra non sembra possibile. Allora ci si sta lavorando, ma vedete che il ritardo da recuperare c'era anche l'Italia, giusto, che però poi è stata risolta quella situazione, perché che una nazionale si legasse così a doppio filo al gioco d'azzardo è sembrato sconveniente. Poi c'è anche la piccola storia di questo bambino di 4 anni che è salito su un tram, si è fatto un giro per la città scappando alla sua babysitter, e poi storia lieto fine: a Milano è stato ritrovato perché un controllore dell'ATM si è interessato a questo bambino solo. Vedete che insomma gli autobus sono un po' casa nostra qualche volta, per fortuna. Giusto, siamo arrivati alle buone notizie, sì. Quindi su Repubblica, nelle storie, ci sono 4 belle storie di noi medici in prima fila per l'Africa, tra i giovani dottori che hanno scelto di fare volontariato prima di iniziare la professione. Ora ci mettiamo in gioco, speriamo che ci sia poi la professione anche dopo, visto che di solito poi nelle pagine successive si parla di disoccupazione. È il momento della rivolta delle buone idee con i comuni virtuosi. Marco Boschini, sentiamo dove ci porta questa settimana. Ciao Carlo, il comune ribelle della settimana è Cantiano, comunità di 2000 abitanti in provincia di Pesaro Urbino. Qui l'amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Piccini si è decisa ad aprire un bando per consentire ai cittadini residenti nel comune di cimentarsi nel ruolo di primo cittadino per un giorno. Chiunque fosse interessato può inviare il proprio nominativo in municipio e un giovedì al mese accompagnerà il sindaco negli impegni quotidiani fissati in agenda, le riunioni interne con i dipendenti, il ricevimento dei cittadini, le riunioni di giunta e tutte le incombenze che fuori dal palazzo non si vedono, ma che fanno dell'azione amministrativa una corsa piena di ostacoli e di sorprese non sempre positive. Ecco, come hanno dimostrato anche le elezioni regionali in Sicilia, una piccola iniziativa di questo tipo è ancora più importante per tentare, e non sarà assolutamente facile, di invertire la rotta nel complicatissimo rapporto di fiducia reciproca tra cittadini e istituzioni. Così a Cantiano, Pesaro Urbino, questo bello, era Marco sindaco per un bellissimo, giorno, bellissimo. Molto bello. Torniamo dopo il GR, parleremo di amianto e di incentivi che non ci sono per la bonifica in questo momento in manovra finanziaria, e poi domande di geografia per tutti. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, si può fare, è stata approvata, alla fine ne avevamo parlato anche noi, la legge delega sul riordino dello spettacolo, settore spettacolo. All'interno c'è la legge che prevede il graduale superamento della presenza degli animali nei circhi. vi ricorderete, ne avevamo parlato. Chissà se riusciremo un giorno a giocare con gli animali senza maltrattarli, all'interno anche di spettacoli circensi. Fatto sta che questo prevede la legge italiana e tra l'altro accade anche nel mondo, perché l'India questa stessa settimana ha messo al bando gli animali selvatici dai circhi. Lo erano già alcuni, adesso nessun animale selvatico, tigre, pantera, elefante, potrà stare in un circo in India. Io che sono sempre stato disinteressato agli animali, ma che invece sono diventato un gattaro da 6 mesi grazie al mio fidanzato, non potevo che riportare questa notizia bella che viene da Bologna. Una signora nel 2013 che conviveva con una sua amica, entrambe vedove, e una gatta, quando muore lascia in eredità la casa in accomodato d'uso alla signora, e con l'unico obbligo di accudire questa gatta, per la quale comunque vengono anche stanziati 350.000 euro che vengono lasciate all'amica. Ovviamente i parenti si lamentano, fanno ricorso, fanno causa, ma vince la signora, che può rimanere a vivere dentro in questa casa insieme alla loro amata gatta. Io quando ero ragazzino c'era nella casa paterna un lontano parente che aveva insegnato al gatto a saltare le sue braccia chiuse così a cerchio e lui lo faceva, chissà se era maltrattamento, io mi divertivo molto. Ma non era maltrattamento, no. Allora, oggi geografia, lezione ora di geografia. Oggi, come si diceva il professore, si interroga. Oggi si interroga. Ragazzi, si interroga. E quindi noi, cari ascoltatori... C'è un bel SMS, vuoi, che ti leggo rapidamente. Cari, la geografia è una materia di sintesi, non è solamente sapere i confini dell'Umbria, bensì riconoscere le relazioni tra ambiente, società, economia, che le istituzioni aiutano a gestire attraverso norme. Voilà, Matilde Mundula, vecchia prof di scienze e geografia. Matilde, grazie. Noi però vogliamo farvi delle domande, perché vogliamo vedere proprio il tasso di ignoranza. Michele, dalla provincia Bat, che sarebbe Barletta, è già un errore, è già una difficoltà geografica. Vedi, direi Barletta Andria Trani. Così? Sì. Giusto, va bene. Su questo molto siamo bene. Ma tanto siamo noi a fare le domande, per cui Michele, ma io voglio studiare, preparati. Quindi ho studiato Barletta Andria Trani. Sei pronto, Michele? Esatto. Sì, sono pronto. Allora, la domanda è questa, però io te lo dico, se tu indugi nel silenzio e noi sospettiamo che stai googolando qualcosa, no, facciamo sono in partire macchina. La sirena. Oppure che ci sia Matilde Mundula con te in macchina. Allora, sono in macchina, sto raggiungendo mia figlia al campo. La domanda è abbastanza facile, Michele. I confini, vogliamo sapere, di una regione italiana che nella fattispecie è la Lombardia. I confini della Lombardia. Ok, allora, ad ovest il Piemonte. Vai. Ad nord la Svizzera. Sì. Ad est il Veneto. Sì. A sud l'Emilia Romagna. Sì. E poi manca il Trentino Alto Adige. Ma bravissimo. Vabbè. Noi eravamo qua con dei sorrisetti quando abbiamo sentito est, perché abbiamo detto si dimenticherà il Trentino. Invece possiamo dirlo, sei molto più bravo di noi, perché noi siamo andati a verificarli, perché allora non li sapevamo a memoria. Io viaggiavo con la fantasia, col mappamondo e l'Atlante, e poi ho imparato molto la geografia attraverso Bravo. Il caso. Però attenzione, perché i biglietti dell'Egitto, Mudek, te li sei già guadagnati. Però a questo punto vogliamo vedere se è un caso o se sei bravo davvero. Domanda un po' più difficile, ti facciamo questa. Come si chiama il fiume che passa nella città di Alessandria? Dovrebbe essere il Po. Niente da fare. Però i biglietti vinte, vabbè, era una domanda troppo difficile. Questa la tenevamo di scorta. Il Tanaro è il fiume che attraversa Alessandria. Era un po' difficile. Comunque, Michele, bravo, perché a bruciapelle, confine alla Lombardia, li sapevi tutti, bravo, complimenti. Hai vinto i due biglietti. Grazie. E l'Umbria a chi la chiederete? Ce l'abbiamo in serbo, cioè, nel senso che ce l'abbiamo scritta in un'altra lingua. 800 24 00 24. Tra poco continuiamo con le interrogazioni di geografia. Adesso parliamo di amianto. Yeah. Allora parliamo di quello che non c'è al momento nella manovra, all'esame proprio in queste ore alla Commissione Bilancio del Senato. Non ci sono gli incentivi per la bonifica da amianto. Cioè, magari saremo smentiti perché c'è stata una pioggia di 4.000 emendamenti, però al momento nella stesura ufficiale manca il rinnovo di questi incentivi che ne saremmo felicissimi, che sono ahimè rinnovati di anno in anno e con fondi ad esaurimento. L'anno scorso ci furono 17 milioni di euro. Possibile che abbiamo incentivi per ristrutturare la cucina, il salotto, la camera dei bambini? Giustissimo, legittimo, ma non ci sono incentivi strutturali per questo aspetto. Allora noi ne vogliamo parlare con chi ha lanciato questo problema e questa tematica, il presidente dell'Osservatorio Nazionale sull'Amianto, Ezio Bonanni. Buongiorno, è con noi. Buongiorno. Buongiorno. E allora, perché tutti noi abbiamo sentito nella nostra vita parlare di amianto e purtroppo anche delle vittime che ha provocato questo materiale tossico che è fuori legge da tanti anni in Italia. Però purtroppo c'è quasi da dire che ognuno, in ogni famiglia c'è qualcuno che è morto per l'amianto, o magari non lo sa che è per colpa dell'amianto. Però io pensavo che intanto bonificare fosse un obbligo, poi ho scoperto diventando consigliere del mio condominio che non è un obbligo. Noi faremo dei lavori tra l'altro per togliere una tubazione, una coibentazione d'amianto, ma non è obbligatorio, cioè si dovrebbe fare, ma non è obbligatorio. Sono, diciamo, i bizantinismi della legge italiana. Pensavo che gli incentivi fiscali ci fossero, pubblico del consigliere Alessio Maurizi. Esatto. E invece anche qui scopriamo che gli incentivi sono così a saltello, a balzello. Bonanni, la prima domanda è proprio questa: come siamo messi al momento su questa questione degli incentivi per le bonifiche d'amianto? Innanzitutto l'Italia è stato il secondo produttore in Europa dopo la vecchia Unione Sovietica fino al 1992, e ne abbiamo utilizzato oltre 3.700.000 tonnellate dal 45. Sì. E in 40 milioni di tonnellate di prodotti che ci sono in tutto il territorio nazionale. 3 milioni di lavoratori che sono stati a contatto, esposti. E alcune centinaia di migliaia ancora tutt'oggi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, scusi Bonanni, dico questo, certamente, calcola 100.000 decessi all'anno, morti all'anno. All'anno soltanto, 107.000 soltanto per mesotelioma, sì, cancro polmonare, asbestosi, senza considerare le altre patologie. Senza considerare. Ecco, ma detto questo, però, che sono cifre che purtroppo è necessario bonificare, perché in Italia noi abbiamo censito 6.000 decessi nel 2016 e sì, oltre 10.000 nuovi malati. Quindi è necessario bonificare. Ma chi oggi vuole bonificare, no? Che incentivi ha? Che sicurezza ha di avere quali allora, incentivi? Nessun incentivo, e questo è un fatto grave, perché poi ci porta a dover affrontare spese sanitarie, spese previdenziali, pesi sociali, costi di ogni tipo 10 volte superiori a quelli che sarebbero necessari per la bonifica. Si pensi solo alle azioni giudiziarie di risarcimento danni, azioni penali che stanno intasando i nostri tribunali. E quindi, lo scorso anno com'è andata, Bonanni? Quanti incentivi sono stati stanziati? 17 milioni di euro a rubinetto, nel senso che massimo con 200.000 euro, sì, come importo, che possono essere, essere sufficienti se uno deve bonificare il piccolo condominio, ma sicuramente no nel caso di grandi aziende che o anche di scuole o gli ospedali scuole, grandi. Noi come ONA, come osservatorio, abbiamo censito già nel 2012 2.400 sì, scuole con presenza di amianto. Cioè poteva accadere che uno faceva domanda per questi incentivi e rimaneva fuori. Io, certamente, quasi ecco, tutti sono rimasti fuori. E allora noi lo vogliamo proprio chiedere anche agli ascoltatori, come controllori dei fatti, anche oggi il fact checking lo facciamo così all'800 24 00 24, se avete avuto a che fare con una richiesta di incentivi per bonificare la mia, ma anche per altre cose, può valere anche per mettere a norma dal punto di vista antisismico, per esempio, come stiamo messi a incentivi. Ma in realtà si potrebbe utilizzare la bonifica dell'amianto anche nel mettere in sicurezza gli stabili, perché nel momento in cui tu inizi a ristrutturare è chiaro che metti in sicurezza tutto, quindi no, e mettere insieme tu un unico pacchetto attività antisismica e rimozione amianto insieme. E tra l'altro, se posso dire, nel senso che il discorso mi sembra molto preciso, si sta dicendo che l'amianto ha un costo sociale anche solamente per le cure mediche di tutte le persone che vengono colpite, che è molto maggiore di quello che bisognerebbe spendere per bonificare. Quindi la bonifica è assolutamente sensata. E la vera cosa che le vorrei chiedere è: ma chi è che si oppone a questi incentivi? Guardi, qui sull'amianto è stata fatta una grossa, sempre un'operazione politica di contrapposizione, di scontro, una logica marxista o marxiana, di scontro tra nella vecchia logica ottocentesca del lavoratore contro, contro il padrone, sì. Invece l'amianto ha colpito anche grossi industriali, pensiamo al nipote, certo, di Agnelli, che è deceduto per un mesotelioma peritoneale che ha contratto in quanto si recava, o spesso usava il treno per recarsi nella fabbrica di Pontedera, e quindi quel trenino. Ma quindi ne abbiamo fatta una battaglia ideologica e quindi stiamo perdendo tutti? Esattamente, perché si fanno si vede tutto in logica di cause penali, civili, aumento dei termini di prescrizione e quant'altro nelle cause penali. E mentre si discute la gente muore. Mi dice che cosa chiedete voi dell'osservatorio sull'amianto esattamente? Allora, in questa fase, mi scusi, di elaborazione della manovra finanziaria, speriamo che qualcuno sia all'ascolto, sicuramente voi avete già fatto le vostre pressioni, giustamente avete già reso noto il problema, però noi nel nostro piccolo ci mettiamo anche noi al servizio. Cosa chiedete? Allora, la nostra proposta è che non ci sia un limite per coloro che bonificano l'amianto, nel senso che chi bonifica dimostra di aver speso la somma ha diritto a un credito d'imposta del 50% se è un produttore di reddito e un 75% se è un cittadino che deve bonificare. Se i genitori danno delle donazioni per bonificare le scuole, queste si detraggono al 50%. In questo modo si risparmia in spesa sanitaria, in vite umane, costi sanitari, pesi sociali per le famiglie e per la collettività. Assolutamente. Ma mi scusi, la cosa che mi chiedo è: c'è qualcuno forse che si oppone a tutto questo dicendo che siccome siamo in Italia qualcuno tenterà di infilarsi nelle pieghe di questa legge? Allora, in realtà noi abbiamo previsto anche questo, e soltanto chi esibisce i pagamenti effettuati telematicamente, quindi con prova telematica del pagamento, con prova oggettiva di flusso di denaro, può aver diritto al credito d'imposta spalmato in 3 anni. E quindi non c'è nessun rischio, non si capisce chi potrebbe essere contrario a questa anche legge. C'è una certa incapacità tecnica dei nostri politici, che sostanzialmente molti dei quali non hanno proprio la cognizione sia del problema. Sì, dico io forse quello che potrebbe essere un motivo, Bonanni, perché siccome le aree da bonificare sono tante, sicuramente ci sono, abbiamo detto, voi lo sapete benissimo, ci sono condomini privati per quanto riguarda tetti, ma anche coibentazione di tubi, per esempio nel mio condominio c'è questo e faremo dei lavori di bonifica, ci sono le scuole, ci sono gli ospedali, ci sono tante strutture pubbliche, ci sono tante aziende anche grandi, importanti, che hanno ancora delle parti che sono con amianto, e quindi la spesa potrebbe anche salire, ma che senso ha preoccuparsi per questo tipo di spesa quando nelle more di una manovra ci sta dentro di tutto? E questa, come ha detto giustamente anche lei, visto la spesa sanitaria che dobbiamo affrontare per curare poi queste malattie, anche solo in questi termini non ha senso fare il confronto. E quindi questi incentivi sono, se vogliamo fare una scala di priorità, le dobbiamo mettere in cima praticamente, insieme ad altre cose ovviamente, ma insomma sono soldi, come dire, ben spesi, ultra ben spesi, anche se dovessero risultare centinaia di milioni di euro, mettiamola così, o addirittura anche di più. Senta, però siccome, come si dice in Toscana, però è meglio... I fondi ci sono, perché l'INAIL per l'amianto ha imposto un sovrapprezzo nel premio, quindi l'imprenditore ha dovuto pagare anche un premio, si chiama premio supplementare asbestosi. Ecco, a maggior ragione che i fondi ci sono, usiamoli. Siccome, come si dice in Toscana, è meglio avere paura che toccarne, cioè che prendere qualche sberlotto, mi preoccupa il fatto, dove vengono smaltiti questo amianto? Ecco, questo è pure un altro problema, sì, perché in Italia non ci sono discariche, ce ne sono molto poche, e allora spesso lo portiamo in Germania questo amianto. Allora, per il momento nell'emergenza andrebbe conferito in discarica, e anche qui lo Stato dovrebbe intervenire creando utilizzando le strutture che ha già, le competenze che ha già, per creare degli stabilimenti per l'inertizzazione dell'amianto stesso, come ci sono per esempio in Francia, oppure adottare altri sistemi attraverso i quali anche abbattere i costi, perché i costi di smaltimento sono molto elevati, perché l'amianto poi viene trasportato in Germania, forse parecchio se ne perde durante il tragitto. E poi ecco, c'è un altro punto: ci sono discariche illegali a non finire nel nostro territorio, anche micro discariche a cielo aperto, e questo è un altro problema che dovrebbe essere affrontato assolutamente. Noi come ONA abbiamo già segnalato all'autorità giudiziaria. Piano piano arriveremo anche a questo. L'Italia sulla gestione dei rifiuti ha attuato una svolta a 180 gradi netta, però bisogna sicuramente vigilare. Io ringrazio Ezio Bonanni dell'Osservatorio sull'Amianto, grazie per essere stato con noi. Grazie mille. Staremo a vedere. Vi aggiornerò, ascoltatori, per quanto riguarda il mio caso personale con lo smaltimento che dobbiamo fare nel mio condominio. Te la sei presa molto questo ruolo di consigliere di condominio. Si dice così, consigliere di condominio. No, anche perché finché non mi ci sono ritrovato, questa cosa dell'amianto l'avevo solo sentita raccontare da altri. Adesso bravo, ci sto nel mezzo anch'io. 800 24 00 24, se volete raccontarci la volta che vi siete imbattuti in questi incentivi fiscali e non è andata a finire bene, anche perché a volte può capitare per questioni di burocrazia, basta mettere un bollino messo male e saltano gli incentivi, oppure la fattura non è ben rendicontata, oppure se conoscete casi di scuole e ospedali dove c'è l'amianto e non si interviene, chiamateci. Si può fare. Allora, ascoltatori, oggi l'ingaggio è controllori dei fatti sull'amianto e la difficoltà. Studenti di geografia davanti alla lavagna. Per tutta la vita, interrogazioni. Interrogazioni, Leonardo da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Benvenuto. Vuoi essere interrogato? Ma sì. Sì. È tanto che non subisco un'interrogazione. Giusto, il brivido dell'interrogazione, è giusto, è vero. Quando uno poi non va più a scuola, non accade più. Però è sempre bello mettersi alla prova. Allora, la domanda è questa: in quale città, fra le tre che adesso le dico, non passa un fiume? Qualcuno dice non è una città fluviale. Bologna, Parma, Brescia. Questo silenzio è sospetto. A lei la parola. Mi deve dire in quale di queste città non passa un fiume. Non googoliamo, Leonardo, sennò scatta la sirena. Parma. A Parma dici che non passa il fiume? No, non credo. Allora, attenzione. A Parma passa... Bravo. Esatto, il notaio fa la trombetta. Passa il torrente Parma, che però sostanzialmente è un fiume. La città dove non passa realmente un fiume è Bologna. Leonardo, ci sei caduto su Bologna, non importa. Non vinci i biglietti, ma è lo stesso, perché va bene, l'importante è mettersi alla prova, partecipare. Però vedete che c'è bisogno di insegnanti di geografia preparati a scuola. Ma io non l'avrei saputa comunque. Perché ci ho vissuto a Bologna. Vabbè, che c'entra. Giovanna da Alessandria. Giovanna, buongiorno. Allora, Giovanna chiamava per sapere come si chiama il fiume che passa per Alessandria? Quella la sapeva. Brava. Vabbè, almeno sulla propria città è giusto. Facciamo un'altra domanda. Il professor Maurizi. Questa domanda è la, diciamo, noi partiamo con una domanda forse più facile di quella precedente, però non lo so. Questa è la domanda. Però Giovanna, non prenderti tempo, perché se stai googolando noi facciamo scattare la sirena. Allora, l'Istria si trova in Italia o in Slovenia? In Slovenia. Brava. brava, perché questa è una cosa che è anche storia oltre che geografia. Certo. È anche storia oltre che geografia. Brava, allora te ne facciamo un'altra così per gusto, per infierire. Comunque i biglietti vinti, sono vinti, il notaio ha detto di sì. Una un po' più difficile. Bene. Guardia sì. Piemontese, in che regione italiana si trova? Piemonte, Calabria. Fantastico. Ma io sono proprio un'appassionata di geografia, mi studio la carta geografica, non su Google, è una sull'Atlante. È una secchiona, Giovanna? Adesso ce lo dice. Sono anziana. Direi che stavo per dire, ha vinto l'ingresso per tutta la vita gratuito al MUDEC, ma non posso permettermi di farlo perché non sono il direttore del MUDEC. Molto bene, però molto complimenti, bene. Complimenti. E sta attaccando questa mania della geografia ad amici, parenti? Non tanto, anzi, mi chiedono, ma come fai a sapere queste cose? Ma a me piace, piace studiare la carta geografica. Va bene, grazie bene, lasciamo mille. Il tempo anche per qualche altro ascoltatore. Intanto sentiamo Sergio da Milano prima di andare sul traffico. Sergio, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Niente, volevo dare la mia piccola esperienza per il discorso dello smaltimento dell'amianto. Controllore dei fatti. Prego. Sergio da Milano, qual è il fatto? Allora, io sono titolare di una piccola azienda meccanica e sì. Abbiamo la copertura che è in amianto, essendo un capannone che è stato costruito all'inizio degli anni 60. Sì. E sono un po' di anni che, nonostante la crisi, cerco di trovare le risorse per poter fare lo smaltimento del tetto. Ma quando proviamo a partecipare ai contributi che l'INAIL mette a disposizione, è praticamente impossibile, perché innanzitutto bisogna rivolgersi a dei consulenti specializzati, perché da soli non si è praticamente non si riesce. Bisogna presentare la domanda, è complesso. Assolutamente impossibile. E questa è la burocrazia italiana. Poi? Assolutamente. E poi con il consulente, che chiaramente si fa pagare per poter fare la domanda per conto tuo, bisogna partecipare tramite questi maledetti click day. E questi click day praticamente spariscono i fondi nel giro di 3 secondi. Cioè tu... Perché la questione ce l'ha spiegata chiaramente Bonanni, essendoci una cifra stanziata finita, limitata, l'anno scorso furono 17 milioni di euro, non ci sono soldi per tutti, quindi chi prima arriva sostanzialmente prima accede ai finanziamenti, gli altri non possono bonificare l'amianto. E soprattutto la cosa da capire è se è veramente chi prima arriva, uno si mette anche in gara, se hanno già deciso prima di arrivare, ma comunque, diventa anche un po' fastidioso. Comunque ci domandiamo se è normale in un paese come questo, dove ci sono 6.000 vittime all'anno per l'amianto, non ci sono i soldi per bonificare l'amianto. Questo è quello che ci sta dicendo Sergio da Milano. In bocca al lupo per i prossimi bandi, che dire, speriamo che questa volta la manovra finanziaria preveda stanziamenti più strutturali, ma noi ci crediamo, ci vogliamo credere. 800 24 00 24 ancora con qualche interrogazione in geografia dopo il traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Allora, cari ascoltatori, vi ricordate la storia che anche noi vi abbiamo raccontato del biblio motocarro del maestro Antonio Lacava, che certo si che gira sì. tra i paesini del sud Italia. Lo so che non era per me la domanda, ma ho risposto. Portando libri col suo biblio motocarro ai bambini delle città dove non c'è una biblioteca. Ebbene, questo signore ha seminato, ma a raccogliere non è stato il nostro paese, è stato... bisogna andare all'estero per trovare una esperienza di sviluppo di questa iniziativa. E per la precisione bisogna andare in Turchia, dove ci sono gli autobus che sono stati trasformati in biblioteche. Autobus dismessi e trasformati in biblioteche. Allora ne parliamo con Marco Barbonaglia. Ciao Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. È un collega giornalista che, come sanno gli ascoltatori di Radio 24, racconta la cronaca di tutto quello che accade, per la verità, cose un pochino più gravi ultimamente dalla Turchia, no? È un paese da cui siamo abituati a sentire notizie incredibili, dal colpo di Stato alla censura dei social, a giornalisti arrestati. Però per una volta, Marco, c'è questa piccola fiaba da raccontare. Certo. Questa è una piccola fiaba, può anche far sorridere da un certo punto di vista raccontare questa cosa della Turchia, visto cosa siamo abituati a sentire normalmente, come dicevi, però è una storia che testimonia anche un altro volto della Turchia, che non è molto conosciuto quando si guarda il paese da fuori, ma che è assolutamente visibile, che si sente molto quando si vive in Turchia. Questa storia in particolare è una storia che nasce in un distretto rurale di Ankara, per la precisione a Karaman Kazan, un centro di circa 50.000 abitanti a nord della capitale, dove appunto si è deciso di trasformare alcuni vecchi autobus, per la precisione 3 per ora, inadatti ormai al trasporto pubblico, dismessi dal servizio, sono trasformarli in biblioteche itineranti. Un'idea che è nata da un gruppo di ragazzi, di studenti, ufficialmente presentata dal Consiglio dei Giovani e subito accolta dal sindaco Lokman Ertürk. Il comune ha poi messo a disposizione alcuni architetti specializzati in arredamenti di interni e la comunità ha donato scaffali mensili e soprattutto libri, e così il gioco è fatto, o meglio sarà fatto a breve, perché è un progetto appunto che è iniziato in questi giorni, come ha dichiarato anche il sindaco, e così gli autobus avranno questa seconda vita come biblioteche itineranti per tutto questo distretto. Ma che tipo di libri ci saranno sugli autobus? Cioè, stai dicendo se c'è censura? Esatto, no. Stavo chiedendo se c'erano anche dei saggi contro il regime, così per sapere. Questo non penso, perché ci sarà insomma la stessa censura che può esserci ovunque, ma anche perché il sindaco Lokman Ertürk è un sindaco del partito di governo, quindi insomma, certo. Non penso che ci saranno. Però, non volevo metterti in difficoltà, ti chiedo scusa. No, figurati, a parte gli scherzi, non c'è problema. A parte gli scherzi, la cosa interessante, come dicevo prima, di questa storia, che può da un lato anche sembrare ridicolo parlare di una cosa di questo tipo parlando di Turchia, ma in realtà è interessante perché ci fa vedere un paese che, al di là di tutti i problemi che ci sono normalmente, è anche un paese che ha una forte vivacità culturale e che è pronto anche a trovare soluzioni, ad arrangiarsi, ha un senso della comunità molto forte. Faccio un esempio, parlando anche di come si può rivalutare, in questo caso si parla di autobus, ma anche antichi palazzi, per esempio a Istanbul, a Karaköy, la sede dell'antica banca ottomana, sì, progettata dall'architetto, famosissimo architetto levantino di origine francese, Alexandre Valory, oggi ospita su più piani un auditorium, una grande biblioteca, un museo della banca, un ristorante, un caffè, un grande spazio studio e altri spazi nei quali vengono abitualmente organizzate delle mostre. Anche in questo caso è uno spazio culturale grande a disposizione della comunità. Ho visto anche fuori Istanbul, per esempio a Esnik, sono stati recuperati caravanserragli, case ottomane, una madrassa, insomma, è stata restaurata. C'è un po' di tutto. La pratica del riuso, insomma, che poi è antica, esatto, quanto il mondo, sta conquistando anche la Turchia. Questa era una piccola fiaba, insomma, che abbiamo. Oddio, mi viene in mente, c'è qualche autobus su cui sono salito recentemente che potrebbe essere più adatto a fare una biblioteca che non a circolare per le vie delle città italiane, però vedi che questo problema ce l'hanno un po' tutti. Grazie Marco Barbonaglia. Grazie mille. Grazie. Non abbiamo notizie nuove, no, di arresti di giornalisti, di censura, perché, oddio, qui da noi li prendono a testate ultimamente i giornalisti e non è una bella sorte, però insomma non abbiamo notizie nuove, no? No. Notizie proprio fresche di questi giorni no, anche vabbè, se ne sono arrivate come sempre negli ultimi tempi notizie di arresti, non necessariamente di giornalisti, ma ne sono arrivate parecchie come sempre. Vi mandiamo Spada ultimamente... allora. Come? Vi mandiamo Spada, che è colui che ha dato la testata al giornalista. È un giornalista italiano. Penso che qua se la passerebbe male facendo una cosa del genere. Va bene, grazie Marco Barbonaglia. Grazie mille. Siamo in chiusura. Margherita da Milano, abbiamo forse 30 secondi per l'ultima interrogazione. Buongiorno. Ciao Margherita. Ciao. Allora, buongiorno. La domanda veloce è questa: dovresti cercare di mettere in ordine per numero di abitanti queste tre città, da quella con meno abitanti a quella con più abitanti: Bologna, Firenze, Palermo. Palermo, Firenze, Bologna. Cioè Palermo è quella con meno abitanti? Ah no no, il contrario. Il contrario. Quindi? Palermo, quindi, Firenze, Bologna, da la più grande alla più piccola. Quasi, perché Palermo è la più grande e Firenze e Bologna sono molto simili in realtà. Attualmente 379.000 abitanti Firenze, 385 Bologna, quindi sarebbe leggermente più grande Bologna. Però dai, si è avvicinata. Questa è la distanza. Se si spostano con un pullman in 5.000, anzi in 3.000, ha vinto. Perfetto. Grazie anche a Margherita. Grazie. È tutto per Si può fare, un programma che realizziamo insieme a voi, insieme ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Andrea Roccabella. Ci risentiamo domani alle 8 con Si può fare. Ciao da Alessio Maurizio. E ciao da Carlo Gabardini. Buon sabato a tutti. Ciao.